Viaggio in Italia di Gigi Donelli. Mia mamma non ha potuto studiare e mia mamma è nata nel 40, non nel 1840, nel 1940. E per far studiare tre figli ha fatto di tutto, ha lavato i piatti nelle case degli altri, ha fatto di tutto. Questa è la nostra storia, no? Poi che è accaduto? È accaduto che negli anni 60-70 siamo migliorati come regione. Non eravamo più la terra dove i fascisti portavano i confinati, era una terra dove arrivava la televisione, arrivava la cultura, scoprivamo di essere forti, di avere un paesaggio, avere un turismo probabile. Ora l'abbiamo realmente, cominciamo ad averlo. Orgoglio lucano? L'orgoglio di essere in una terra che ha attratto Mel Gibson per fare The Passion, che ha attratto grandi poeti come Carlo Levi, come Rocco Scodellaro, Amelia Rosselli e tanti altri ancora. Terra di esilio tra contadini abbracciati alla terra e dalla terra in fuga. Viaggio in Italia oggi attraversa la Basilicata, una regione che l'attore e regista Ulderico Pesce ama raccontare tra passato e presente, una terra fatta di lunghi silenzi e di improvvise proteste, di montagne e di colline argillose che si sbriciolano sotto l'aratro mentre cambiano colore in un ciclo che va dal verde vivo al nero bruciato. Terra tra due mari, Lucania per i greci ed i latini, Basilicata secondo l'amministrazione bizantina, Lucania nel ventennio, Basilicata per la Repubblica. Comunque sia, una landa vasta e poco popolata, verdissima in questa stagione, mentre lo sguardo ondeggia lungo pascoli e campi a 800 metri d'altezza. Due province, a Potenza e Matera, e 131 comuni tra le pieghe della terra. Due mari e tanti cereali tra Genzano, Francavilla, Tolve e su fino a Cancellara, in direzione della capitanata pugliese. Festa dei cereali, sinonimo di grandi orizzonti e di magri guadagni. Ma questo è naturalmente la storia, poi il tempo passa, le cose cambiano. In Basilicata, nel dopoguerra, il cambiamento ha viaggiato in automobile. Piovene lo accenna appena, ma nel 1956, in una regione vasta a metà della Toscana, c'erano solo 6.383 automobili private, in un'Italia che ne aveva già un milione. Oggi che siamo un paese di due auto per ogni tre maggiorenni, la Basilicata ha 600.000 abitanti e 380.000 automobili. Forse è per questo che la minuscola stazione di Matera emerge timidamente da un enorme parcheggio. Manca a me uno per Bari. Matera è un capoluogo di provincia senza ferrovie dello Stato. Qui, su binario, arriva il trenino a scartamento ridotto delle Apulo Lucane. Mi chiamo Rocco, ho 20 anni, vivo a Grassano dalla nascita, residente a Grassano e adesso sono circa 6 mesi che sto lavorando a Rimini, all'aeroporto militare e viaggio frequentemente, in media 2 settimane al mese. No, sono della provincia. È molto complicato spostarsi. Praticamente mi sposto il meno possibile, studio a Bari. In città le ferrovie dello Stato sono attese ed annunciate da anni, ma per ora sono solo uno scheletro di cemento senza binari alle porte del comune. Per arrivare a Bari, che sono poco più di 70 km, e ci impiega quasi 2 ore, tra l'altro i treni fanno pietosamente, sono proprio pietosi. E per arrivare a casa mia io ci impiego... Che è dove? Che Ferrandina. Ci impiego più o meno... Ferrandina quanti chilometri sono da Matera? Sono 30 chilometri. 30 chilometri. Siccome a Ferrandina ci sono le ferrovie dello Stato, le mie amiche che vanno a Roma ci impiegano lo stesso tempo che io impiego per arrivare a Bari. E io parto da casa dopo pranzo alle 3 per arrivare alle 6:30 a Bari. Il treno intanto è partito e io non ho fatto in tempo a chiedere a Rocco se al suo paese si legge Carlo Levi, lo scrittore torinese che nel 1935 iniziò il suo confino proprio a Grassano, sull'Appia Antica tra Matera e Potenza. Carlo Levi, trasferito poi ad Agliano, che aveva allora il doppio degli attuali 1200 abitanti, dal suo esilio descrisse una terra senza conforto e dolcezza, un mondo serrato nel dolore e negli usi, negato alla storia e allo Stato, un mondo eternamente paziente. «Noi non siamo cristiani», gli dicevano i contadini, «Cristo si è fermato a deboli». Cristo si è fermato a Eboli, dove la strada e il treno abbandonano la costa e il mare e si addentrano nelle desolate terre di Lucania. Cristo non è mai arrivato qui, né vi è arrivato il tempo, nell'anima individuale, nella speranza, nel legame tra le cause e gli effetti, la ragione e la storia. Nessuno ha toccato questa terra se non come un conquistatore, un nemico o un visitatore incomprensivo. Le stagioni scorrono sulla fatica contadina oggi come 3000 anni prima di Cristo. Cristo si è fermato a Eboli. Eccoci dunque nel set di questo e di molti altri film. I Sassi. La prima volta che ho visto Matera ho perso la testa, spiegava Mel Gibson a chi gli chiedeva perché avesse scelto la Basilicata per far rivivere il Golgota e la sua Giudea. Impossibile dargli torto dal sagrato della chiesa di Sant'Agostino, dove comprendo anche il perché di quell'attrattiva dell'inverosimile di cui scriveva Guido Piovene. Questa è la gravina di Matera, è un affluente del fiume Bradano e noi siamo ai margini della Murgia pugliese che entra nella Basilicata. Il luogo è stato scelto da mio nonno, dai miei avi, per la sua bellezza, per la sua grande suggestione. È un luogo facile da vivere. Perché c'ha l'acqua. L'architetto Pio Acito mi guida attraverso il quartiere dei Sassi. Sotto si è realizzato un volume per escavazione, per sottrazione. Quindi con una sola operazione, con dispendio energetico vicino allo zero, perché non prevede il trasporto ma solo lo spostamento in loco, si realizzava un doppio volume. Una parte di casa scavata, le grotte, l'ipogee, e una parte di casa fuori terra. Le case dei Sassi sono in gran parte palazziate, sono costruite fuori. È un volume quasi simile, è sotto, all'interno. Noi siamo adesso sull'atrio della chiesa di Sant'Agostino, ma sotto i nostri piedi ci sono delle grotte profondissime, proprio qua sotto. E i materiali tirati fuori da queste grotte sono quelli che sono serviti per realizzare la facciata della chiesa. I Sassi erano quasi completamente spopolati ancora 30 anni fa, erano rimaste un migliaio di persone. Poi c'è stato un grande rilancio, cos'è accaduto? Beh, è accaduto che c'è stata attenzione da parte della cultura materana che ha richiesto e ha rivendicato davvero di non lasciar decadere completamente, non lasciar morire completamente i Sassi. C'è stata attenzione da parte del Parlamento italiano che a metà degli anni 80, con una legge speciale, la legge 771, finanzia il recupero dei Sassi di Matera e la rivitalizzazione degli stessi. Oggi ci sono 4.000 abitanti? Il recupero residenziale è, credo che il 40% dei Sassi siano ormai recuperati. Beh, non tutti possono essere recuperati e adeguati alle esigenze moderne. Io stesso, che ho la fortuna di vivere nei Sassi, so bene di avere uno stile di vita che non può essere lo stesso che aveva mio nonno 60 anni fa, e quindi le mie esigenze sono di tipo diverso dalle sue. Io sono più viziato e sono più delicato di mio nonno. Guido Piovene nel 56 osservava prima dell'alba il via vai di contadini, asini e muli diretti ai campi e aggiungeva che il destino dei Sassi non poteva che essere quello di un monumento. Nel 69 lo scrittore inglese Wallen Morton veniva preso per un funzionario da un vecchio contadino scampato al trasloco, che lo implorava di non trasferirlo nelle case nuove. Quindi nei Sassi credo che ci sia ancora spazio per altre 1.500-2.000 persone, e non sarebbe male. È possibile che corra dei rischi nell'anno 2007 un luogo come questo in Italia? Sì, è possibile che diventi una sorta di Disneyland. I Sassi hanno subito una serie di maltrattamenti. Nella storia dei Sassi sono note le chiese rupestri. Ebbene, alcune di quelle chiese oggi sono destinate a diventare hall di albergo, o a diventare cantinette per i privati, o ancora pub. Credo che questo sia la storia di Matera, ma la cultura italiana non merita questo. Nel 1946 l'imbuto conteneva metà dei 30.000 materani. Oggi solo 4 dei 60.000 abitanti, ma è l'intera città che guarda al Rione delle Meraviglie per il suo potenziale di sfruttamento. Il futuro di Matera passa per i Sassi e la TV locale registra il dibattito comune cittadini su parcheggi, zone a traffico limitato e multe, ma anche le polemiche tra chi nei Sassi vuol mettere l'aria condizionata e gli ascensori e chi invece insiste per la massima conservazione. Il blog d'opinione Sassi Cult scende in campo per denunciare l'alto rischio a cui saranno sottoposti gli ipogei di Piazza Vittorio Veneto. Mentre il 40% circa dell'area è ancora da recuperare, i soldi della legge 771 dell'86 che ne ha finanziato il ritorno alla vita sono finiti. Secondo il sindaco mancano all'appello 140 milioni e dunque si parla di finanziamenti privati e anche di utilizzare le royalty del petrolio. Si parla molto di Sassi a Matera, ma il loro destino non appare poi così chiaro. Viaggio in Italia. Da lì arrivano delle nuvole, si alza vento, nuvole di tempesta. Praticamente in mezz'ora si è il tempo è cambiato e qui si è ricreata la situazione proprio suggestiva che noi ci immaginiamo legata alla crocifissione di Gesù. Quando si parla di Sassi, in Basilicata si finisce a parlare anche di cinema. Ispirandosi al modello torinese della Film Commission, 2 anni fa è nata un'associazione che vorrebbe facilitare chi è interessato a girare film, telefilm o spot in regione. Grande sponsor involontario di questo sogno collettivo è stato il newyorkese Mel Gibson, che nel 2002 ha invaso la città con la sua megatroupe hollywoodiana armata a Cinecittà. Penso che portare giù 20 tir di macchinari abbia un costo. Se questi macchinari fossero già disponibili sul posto? Ho cercato le tracce del grande cinema di cui a Matera si parla con entusiasmo e ho trovato Franco Giase, un quarantenne che con 4 soci ha creato una casa di produzione televisiva che produce per le principali reti private del sud. Bisogna innanzitutto pensare al cinema come a una a un'industria, e l'industria non esiste senza gli stabilimenti, non esiste senza la meccanica, gli impianti, non esiste senza le risorse umane, per cui è troppo facile parlare di Film Commission soltanto come un gran bel sogno, se concretamente non si lavora ad un progetto che parta proprio dalla necessità, dalla consapevolezza che è necessario mettere in piedi un sistema industriale cinema. Lascio Matera, i Sassi e i progetti cinematografici per raggiungere Potenza. Seguo l'Appia oltre l'invaso di San Giuliano, dove lo scorso anno, a 40 km dal mare, hanno trovato una balena fossile, di cui per adesso non si sa che fare. Da Miglionico vedo i corsi di Bradano e Basento, che la strada risale poi attraverso un paesaggio che si innalza attraverso Grottole, Grassano, Tricarico, mentre in alto volano i rapaci. Pochi chilometri ed ecco le piccole Dolomiti Lucane, poi salgo i 900 metri del valico dei Tre Cancelli, da dove si apre la strada su Potenza. Una vera e propria guerra contro la Basilicata e il popolo lucano. Nel capoluogo lucano c'è agitazione. La magistratura è al lavoro su molti fronti. Tre anni dopo lo shock dell'inchiesta condotta da John Woodcock sui legami tra politica e criminalità in città, ora altri magistrati indagano su alcuni grandi progetti turistici e su alcune concessioni sospette. Il tutto poi si mischia al frastuono dei ricatti fotografici che sembrano il seguito ideale del Savoia Gate. Tutto insomma sembra far capo a Potenza e il presidente della regione parla attraverso gli schermi TV di attacco mediatico. Sicuramente c'è stata un'amplificazione mass mediatica nella giornata di ieri che è esagerata e che offende innanzitutto l'immagine della regione, che è notoriamente una regione dove la coesione sociale, la legalità e anche la trasparenza. 100.000 abitanti con l'area metropolitana. Potenza ha interamente colonizzato la dorsale dell'alta valle del Basento, in cima alla quale era nata. Triplicando in 50 anni la sua popolazione e la sua reputazione di città del pubblico impiego, ha nascosto ormai il suo centro storico dietro una quinta di palazzi moderni. A quota 800 metri sul livello del mare c'è il piccolo centro storico. Percorrendo Ustruscio, come dicono i potentini, per la passeggiata in via Pretoria, si raggiunge il Teatro Stabile, dove questa sera, alla presenza delle autorità, come si dice, si parla di economia e di territorio. Al dibattito hanno partecipato il sindaco di Potenza Sant'Arsiero, il rettore dell'Università della Basilicata Tamburro, il presidente di Confindustria Basilicata Martorano, il presidente della Fondazione Antiusura Cozzi. Economia in Basilicata oggi vuol dire ovviamente Fiat Amelfi, Eni in Val d'Agri, ancora Ferrero, Marcegaglia, ma anche salotti, componenti meccanici di precisione e ortofrutticolo, costruzioni e turismo, in quello che appare obiettivamente un grande e irreversibile cambiamento rispetto a un passato prossimo così antico da trasfigurarsi nel mito. Eppure, più che la soddisfazione, qui si registra soprattutto delusione e lamento. Sono Umberto Passarelli Pula e mi occupo di distribuzione di gas GPL in Basilicata e in provincia di Salerno. Un handicap che vive questa realtà locale rappresentato dal fatto che purtroppo negli anni non si è sviluppata una cultura d'impresa, si è sviluppata tradizionalmente una cultura d'impresa associata all'assistenzialismo, alle varie 488, 219, imprenditoria femminile, e quindi quando il denaro proviene da canali pubblici europei, nazionali o regionali, quelle intelligenze, quelle volontà non si sviluppano adeguatamente per poter presentarsi sul mercato in maniera positiva, forte, aggressiva, e quindi questo concetto di assistenzialismo rappresenta, tra virgolette, ha rappresentato un danno allo sviluppo economico delle realtà locali. Sono Don Marcello Cozzi, guido una fondazione antiusura qui a Potenza. Il problema che noi incontriamo quotidianamente è il problema di una povertà che cresce, è la povertà di persone che fino all'altro giorno tu mai avresti immaginato di incontrare in questa categoria di persone, l'impiegato e la famiglia monoreddito che non ce la fa più ad arrivare alla fine del mese, o è il cassintegrato. Abbiamo cioè una categoria di persone che sta trasformando la società qui dalle nostre parti e la sta trasformando in negativo. La politica, certa politica, è funzionale ai poveri e i poveri sono funzionali a una certa politica. Per uscire fuori dalle righe dico chiaramente che finché ci sono i poveri ci sarà clientelismo, finché ci sta mancanza di lavoro, voglia di lavoro, ci sarà una politica che si presenta come clientelismo. Tra un intervento e l'altro si parla anche di petrolio. L'oro nero lucano viene estratto in 100.000 barili l'anno. Le royalties arrivano e sono anche ricche, ma da anni si discute un impiego strategico di questa nuova ricchezza. Sono Donatello Cimadomo, avvocato, ricercatore universitario nell'Università degli Studi di Salerno, procedura penale, vivo a Potenza dove svolgo la mia attività professionale. Credo che le risorse del sottosuolo della Basilicata debbano essere messe a disposizione del mondo imprenditoriale. La maturità della Basilicata debba essere tale da mettere a disposizione queste risorse degli grandi industriali che sono intenzionati ad investire in questa regione, ottenendo in cambio della scommessa che fanno un guadagno, tra virgolette, sotto il profilo delle spese. Mi spiego. Dovrebbero essere agevolati nell'investire e nel creare strutture, ottenendo un risparmio di spesa sotto il profilo dei consumi, perché soltanto in quel modo si riesce a creare una prospettiva occupazionale per il figlio di quel signore che deve risparmiare i 10 centesimi alla pompa di benzina. Senza attendere un risparmio specifico, Monia Falino, marchigiana di nascita, è emigrata in Basilicata, terra dei suoi avi, dove ha avviato un'attività di raccolta di rifiuti speciali. Non è vero che qui non si può fare l'imprenditore, qui è possibilissimo come in qualsiasi altro posto d'Italia. L'unica cosa è che c'è questo pregiudizio di base, di dire non c'è la possibilità e quindi nessuno o pochi hanno il coraggio di farlo. Perché comunque questa è una terra bella, come dicevamo, di persone, di cultura, è anche una terra semplice, molto vivibile. Quindi qualità della vita è il peggiore difetto? Ecco, si pensa sempre che siano gli altri che ti debbano dare, invece non capiscono che sono loro, le persone che vivono qui, che si debbono aprire. Ecco, secondo lei in questa nuova generazione c'è un segnale reale di cambiamento? Sì, i giovani si vogliono riscattare, però sono pochi, perché i giovani di oggi secondo me hanno il problema che non hanno degli obiettivi. Appena oltre Potenza c'è Tito, la zona industriale con 3 milioni di metri quadri di superficie attrezzata. Bari ormai è lontana, 172 chilometri, Salerno è solo a 90. Siamo nella Basilicata di influenza campana e qui, dopo il terremoto dell'Irpinia, sono arrivati i miliardi della ricostruzione. Tito è anche lo scenario del clamoroso caso della Sinoro, l'azienda che avrebbe dovuto lavorare l'oro e dar lavoro alle vittime di un precedente fallimento e che invece da 18 anni divora fondi pubblici senza nemmeno produrre occupazione. Questa è l'Italia che fa paura, e dico Italia perché in storie come questa non è certo coinvolta solo la Basilicata. Ma siamo dunque a Tito, dove c'è movimento e lavoro, 85 aziende registrate e operative, 7 invece sono chiuse. Attilio Martorano, neopresidente di Confindustria Basilicata, mi dà il quadro della situazione. Ma la situazione in Basilicata credo che sia una situazione abbastanza tipica del Mezzogiorno, cioè abbiamo un'economia che ancora non ha raggiunto dei livelli di maturità tale da essere in grado di autoregolarsi anche rispetto ai momenti di crisi, di difficoltà, di ripartire, di riposizionarsi. Qui siamo nella zona industriale di Tito, quindi Potenza se forse sì, quasi si vede. Questo è il luogo da cui ci si aspettano le iniziative. Sì, guardi, le devo dire, noi siamo nell'area industriale di Tito, che è l'area più popolata della provincia, ma probabilmente della regione. In quest'area industriale ci sono molte realtà che sono davvero delle realtà di eccellenza. Bisogna dire che esistono diversi modi di fare impresa. C'è un fare impresa che tende sempre più a rappresentarsi all'esterno. C'è tutto un altro mondo che, grazie a Dio, non è marginale rispetto al primo, che invece è fortemente centrato sui processi industriali, sul prodotto, sul mercato, sul cliente, sulla ricerca, sull'innovazione, e che a volte sfugge anche all'analisi di chi, come me, si dedica tutti i giorni a questo tema. Anche all'interno di quest'area industriale esistono in realtà, per esempio nel settore della meccanica di precisione, che hanno brevettato componenti che vengono utilizzati in tantissime macchine, automobili o macchine industriali, e così via dicendo. La sfida è far sì che questi casi diventino sempre più numerosi e che in qualche modo si trasformino da esempi di eccellenza di nicchia a sistema. Mi arrampico sulla strada di Avigliano e assisto nuovamente allo spettacolo delle pale eoliche che qui, come in Molise, si moltiplicano sulle creste. In piazza mi attende Domenico Tripaldi, quarantenne, sindaco di questo comune di 12.000 abitanti. Come diceva De Crescenzo, uno dei suoi libri, fanno l'agorazein. Cosa cioè, fanno? L'agorazein. Cioè praticamente, da agora? Da agora a piazza, diciamo, praticano la piazza, agorazein. In dialetto viglianese si dice stracque chiazza. Cioè praticamente stanno in piazza. Ah, un comune che ha subito anch'esso un'evoluzione sicuramente nel corso di questo cinquantennio dal viaggio in Italia di Piovene, però essenzialmente alcuni caratteri sono rimasti stabili, sicuramente questo forte carattere identitario che veniva ricordato anche da Piovene, anche se chiaramente Anche qui si avverte, forse con qualche decennio di ritardo rispetto al resto d'Italia, un certo riflusso, un certo richiudersi un po' in se stessi, che rischia poi di far venir meno quella vivacità sociale e culturale che è stata un po' sempre la caratteristica fondamentale della nostra comunità. La misura del tempo che è passato ce lo dà l'insegnante della scuola elementare. Noi abbiamo avuto un'insegnante negli anni 50 che è stata, diciamo così, festeggiata pochi anni fa da noi altri, perché è venuta a rivedere, insomma, i luoghi che aveva lasciato nel 50. Lei arrivava dalla Versilia, di la verità ci ha consolato il fatto che lei abbia trovato il villaggio, una frazione molto molto progredita, perché quando arrivò lei non capiva neppure una parola. Siamo arrivati alla fine della 30ª tappa del viaggio in Italia. Un ringraziamento a Chiara Albicocco per l'assistenza in redazione, a Fabio Cantadori per l'assistenza in regia. Con voi l'appuntamento, come di consueto, è la domenica alle 11:30, il sabato in replica alle 21. Un saluto da Gigi Donelli e un buon fine settimana a tutti voi.